non faccio errore mai, mai. Tieni, amanti sono, amanti sono, amanti, troverai che le cose è così. E così con gli amanti troverai, troverai che non s'accese, non s'accese loro mai. E lo sarà, che viene da Rai. Troverai che non ne sono accese, troverai che le cose, e così, e così, e così.